America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, ha lasciato ieri l'Italia e nel suo addio ha sottolineato come il tema immigrazione sia in testa ai problemi con cui dobbiamo confrontarci. La soluzione, è nell'incoraggiare lo sviluppo in Africa. Qualche giorno fa parlavo proprio di questo, qui ai microfoni America 24, col ministro degli esteri Paolo Gentiloni, e la sua sfida, cioè che l'Italia vada da sola se l'Europa è ferma, viene raccolta oggi di nuovo qui ai microfoni di America 24 dalla chairperson dell'Unione Africana Nkosazana Dlamini Zuma. Hello, Madam Zuma, can you hear me? Yes, I can hear you, Mario. Intanto sono felice di risentirla qui ai microfoni di America 24, ma mi dica cosa pensa intanto dell'Europa che ritarda nel proporre un piano di sviluppo per il continente africano. Credo che sia un vero peccato. L'Europa sta perdendo un'occasione perché l'Africa oggi è pronta a collaborare, a ricevere gli investimenti esteri e a intraprendere un processo di industrializzazione. Ci sono numerose possibilità per le aziende europee. Infatti, non stiamo semplicemente chiedendo un aiuto, ma bensì siamo in cerca di investimenti. E questo implica che se si deciderà di intraprendere questa strada, ci sarà un consistente ritorno economico per l'Europa. Possediamo foreste, oceani e mari, e le opportunità per un loro sfruttamento sono potenzialmente infinite. Non capisco perché l'Europa continui ad esitare. Ecco, questo se l'è chiesto anche il premier Matteo Renzi, e devo dire che il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, proprio qui ai microfoni America 24 qualche giorno fa, ha confermato che se l'Europa continuerà a star ferma, l'Italia si muoverà da sola. Ecco, lei crede che l'Italia da sola possa farcela? Sono fermamente convinta che l'Italia possa muoversi in autonomia. Ci sono infatti diversi elementi di complementarietà fra la sua economia e quella africana. Inoltre, bisogna considerare il fatto che in molti casi dover aspettare che tutti e 27 i paesi si muovano insieme si traduce solamente in un ostacolo ulteriore. Ciò di cui abbiamo bisogno è di una locomotiva che traini gli altri membri dell'Unione, e io credo che l'Italia possa giocare proprio questo ruolo. Avete già avuto su questo un confronto con l'Italia o non ancora? Cioè, come Unione Africana, sareste pronti a cominciare a discutere questa prospettiva in relazione all'intero continente? Ne abbiamo parlato in occasione della visita del premier Renzi in Etiopia, ma ne abbiamo discusso anche a Roma, dove si è svolto un incontro fra l'Italia e i ministri degli esteri di numerosi paesi africani. Saremmo felici di proseguire con questo dialogo. Siamo pronti ad accogliere l'Italia. Ecco, il problema immigrazione è serio e dunque le chiedo come valuta il problema dell'immigrazione guardando al futuro, perché alcuni paesi africani hanno tassi di crescita economica anche del 7-8%, ma anche la popolazione è in crescita. Dunque cosa accadrà nei prossimi anni? Entro il 2060 ci aspettiamo che la popolazione superi i 2 miliardi e questo sviluppo è destinato a continuare. Dobbiamo però migliorare anche la nostra economia e dobbiamo farlo coinvolgendo in questo processo i più giovani e garantendo una ridistribuzione della ricchezza. Nonostante la crescita elevata del PIL, se la ricchezza generata non viene ridistribuita, continueremo infatti a dover affrontare la piaga della disuguaglianza sociale e le persone continueranno a vivere in povertà. Io credo che l'istruzione possa essere uno degli strumenti principali per promuovere la parità sociale, ma le competenze che ne derivano devono essere declinate anche a vantaggio dell'economia. Dobbiamo fare in modo che i giovani sviluppino una preparazione specifica, soprattutto nei settori della scienza, della tecnologia e dell'ingegneria. Ma a questo deve aggiungersi la formazione professionale, affinché siano poi in grado di esercitare una professione e di creare a loro volta posti di lavoro. Detto questo, credo che sia davvero arrivato il momento di passare all'azione su tutti questi temi. Pertanto, se l'Italia è pronta, e ne stiamo discutendo, può scegliere il paese da cui iniziare. Investire sull'intero continente non è possibile a causa delle sue enormi dimensioni, ma ovunque si scelga di farlo, credo che la sfida più importante sia poi quella di imparare a lavorare insieme. A fronte della lentezza europea, Cina e Stati Uniti, al contrario, sono molto attivi e devo dire che ogni giorno che passa, in fondo, è un'occasione perduta. Yes, In effetti è così. L'Europa si lamenta in continuazione del fatto che la Cina abbia una forte presenza in Africa, ma le porte sono aperte, possono venire quando vogliono. In questo senso sì, stanno perdendo una grande opportunità. A New York, ad esempio, si è svolto un incontro molto importante fra Africa e Stati Uniti, il proseguimento di un dialogo iniziato nel 2014, in cui abbiamo discusso proprio di quali siano i passi necessari per incrementare gli investimenti statunitensi in Africa. L'America ha compreso che sarà questa la prossima frontiera della crescita globale. Non riesco a capire come l'Europa possa non accorgersene. Lei ha detto che l'Italia ha bisogno di scegliere i paesi in cui vuole investire, perché l'intero continente è troppo grande. Dobbiamo prendere ovviamente in considerazione anche il problema della sicurezza. Ecco, secondo lei quali sono i paesi in cui ritiene che l'Italia farebbe bene a concentrare le proprie energie e le proprie risorse? Non posso scegliere per l'Italia. Tutto quello che posso dire è che stiamo parlando di un grande continente. È vero che ci sono alcune zone pericolose, ma il resto della regione è stabile e sicuro. L'Italia ha buoni rapporti con molti paesi in Africa, quindi se davvero avesse intenzione di investire, credo che il dove sia un elemento poco rilevante. Ciò che conta è iniziare. Sappiamo, ad esempio, che l'Italia eccelle nella piccola e media impresa, e questo rappresenta un valore aggiunto anche per l'Africa, e nella produzione di alcuni macchinari di cui abbiamo bisogno. Quindi ci sono numerosi punti in comune su cui possiamo cominciare a lavorare insieme. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Song of the Day, Madam Zuma, we have to choose a song of the day. Che cosa scegliamo? What do we choose? We choose Bob Marley, Africa Unite. Fantastic! Bob Marley, Africa Unite! Africa Unite! 'Cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah! How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans, yeah. As it's been said already, let it be done, yeah. We are the children of the Rasta man. We are the children. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.